dal canto popolare afroamericano, il blues, l'espressione della razza afroamericana più autentica, più legata alla storia, legata alla cronaca, passiamo alla citazione del canto popolare di un'altra nazione, in questo caso l'Italia. Questo brano si intitola Canto ritrovato, riecheggia il canto lombardo, è una nostra cosa recente che vi farò sentire in duo con il nostro prestigiosissimo contrabbassista di livello internazionale, Bruno Tommasi. Canto ritrovato. Thank you.